Na donnia, allo spuntalo solaia, vist na donni, potenza toi divina, potenza toi divina, potenza toi divina, quando era ranni. E faccia tunni, bianca come la neve, bianca come la neve, bianca come la neve alla montagna. Come la neve alla montagna, bianca come la neve alla montagna, di affacciare la vista giovane bella. Tinema volati, tinema volati, alli suoi comanni belle, voi è belle a servire monacelle, e si monaca ti fai, servite si farà. Servili monacelle e si monaca ti fai, sermite si farà, si monaca ti fai, si monaca ti fa, si monaca ti fai, sermite si farà, e tu dicerà la me se se la servirà, e tu dicerà la me, e tu dicerà la me, e tu dicerà la me se se la servirà. Più lucente sono le stelle, e quando la chiamata tu mi parà più bella, e più bella tu mi parà più bella, e quando la chiamata tu mi parà più bella, e poi è bella più lucente sono le stelle, e quando la chiamata tu mi parà più bella. Più bella tu mi parà più bella, e quando la chiamata tu mi parà più bella.